Europa 24. Ancora un saluto da Gigi Donelli. Oggi parliamo di Big Data e di questo percorso in atto verso la proposta UE per una tassazione equa e trasparente per quanto riguarda appunto i grandi del settore. L'Europa che si conferma al terzo mercato per Apple, che proprio ieri ha presentato i conti del periodo aprile e giugno, quindi prima le Americhe, poi la Cina, Hong Kong e Taiwan, e dunque l'Europa, il colosso di Cupertino, ha mostrato utili sopra le stime a 10,7 miliardi di dollari, ma vendite di iPhone sotto le attese. La Commissione europea ha lanciato a fine giugno un piano per una tassazione appunto più equa e trasparente per evitare che le multinazionali del digitale paghino tasse irrisorie in alcuni paesi. C'è una consultazione in corso che si concluderà a settembre e che si basa su tre punti, come spiega Stefano Simontacchi, l'esperto dello studio Bonelli Rede, nell'intervista di Livia Zancaner. Il piano presentato dalla Commissione europea si basa su tre pilastri: il rilancio della CCCTB, la Common Consolidated Corporate Tax Base; secondo, assicurarsi una tassazione effettiva da parte dei gruppi multinazionali attraverso operazioni anti-elusione e il monitoraggio dei ruling; terzo, l'aumento della trasparenza delle informazioni. L'idea della CCTB è attribuire il livello impositivo agli stati europei relativamente al profitto consolidato che ha fatto una multinazionale sul territorio europeo secondo delle chiavi di allocazione forfettaria. Se la trasparenza venisse applicata anche tra governi, il 90% dei problemi sarebbe risolto, e questa è l'azione 2 della Commissione europea. La Commissione europea ha chiesto a tutti gli stati europei di mandargli una serie di ruling che questi stati hanno sottoscritto con le multinazionali, e sta andando a vedere quali stati si sono comportati bene e quali male. E ora parliamo del ricollocamento dei migranti. Dunque 48 ore fa una decisione che non soddisfa ancora, ma che affronta e di fatto cambia un principio che alcuni paesi dell'UE non intendevano in realtà modificare. Si rifarà il punto tra 6 mesi, forse si poteva fare di più, ma sicuramente per adesso è un primo passo. Dopo l'accordo europeo sul ricollocamento di 32.200 migranti rispetto ai 40.000 previsti, i commenti vanno più o meno nella stessa direzione. È un'intesa che mostra molti limiti, ma che al di là dei numeri ha sancito il principio di una politica estera comune, nonostante l'evidente scontro tra l'Europa e alcuni paesi, ci spiega il vicepresidente del Parlamento europeo, Davide Sassoli. Noi stiamo andando verso un'Europa che fa propria una politica di redistribuzione di uomini e risorse. Naturalmente ci scontriamo con il peso di alcuni governi, Polonia, Spagna, che credono che questa politica dell'immigrazione ognuno se la debba risolvere a casa propria. Non così la pensano invece paesi come l'Italia, la Francia, la Germania. Il trattato di Dublino, secondo cui ogni richiedente asilo deve stare nel paese di ingresso, è quindi superato. I primi trasferimenti da Italia e Grecia inizieranno a ottobre e proprio in autunno ci sarà un nuovo vertice a Bruxelles, ha ribadito il prefetto Morcone. È stato programmato un ulteriore incontro dei ministri dell'interno nell'autunno per completare da 32.000 a 40.000 le persone da riallocare secondo il criterio indicato dal presidente Juncker. Le persone arrivate finora nel nostro paese sono 82.000, a fine anno raggiungeranno quota 170.000. Nel 2014 l'Italia era terza tra i paesi dell'Unione Europea per numero di richiedenti asilo, dopo Germania e Svezia e prima di Francia e Ungheria. Livia Zancanera, Radio 24, Sole 24 Ore. Juncker, che oggi torna sull'accordo chiuso la scorsa settimana tra partner dell'Eurozona per il terzo salvataggio della Grecia, terzo salvataggio in 5 anni, e che dice trattarsi di un accordo nato dalla paura, ma che ha comportato una rottura di fatto dei legami di solidarietà europea, così come è avvenuto sull'immigrazione. Così il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, in un'intervista a un gruppo di quotidiani europei. Abbiamo evitato il peggio, l'abbiamo evitato non perché siamo stati particolarmente saggi, ma perché abbiamo avuto molta paura delle conseguenze. Bene, con questo è tutto per Europa 24, che torna domani alla stessa ora. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.